Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Nel 2014 Clint Eastwood gira un film dal titolo The Jersey Boys. Il film racconta la storia di quattro ragazzi che negli anni 50 e 60 si fanno largo nel complicato mondo della musica cercando di restare fuori dai guai. È lo stesso Clint che ci racconta la storia. I love the Four Seasons music. Mi piace la musica dei Four Seasons. È stato divertente farne un film. È stato divertente sentire un nuovo brano ogni giorno. Ogni giorno pensi che quella sia la tua nuova canzone preferita e poi il giorno dopo ne senti una nuova. L'idea del film era mostrare il genere di vita che conducevano. Molti di loro hanno trascorso un periodo in carcere e poi è arrivata la musica a tirarli fuori da lì. Qualcosa per cui lottare, e così il successo è stato un modo per tirarsi fuori dal quartiere. So it was a way out of the neighborhood. Come avete capito, la band formata dai Jersey Boys si chiama The Four Seasons e l'anima del gruppo è il personaggio di cui oggi parleremo. Il suo nome è Frankie Valli, un artista rubato alla parruccheria, l'uomo che rese al falsetto la dignità della voce solista molto prima che lo facessero i Bee Gees. Francesco Steven Castelluccio nasce il 3 maggio del 1934 dalla parte sbagliata di Newark, nel New Jersey, quella abitata solo da immigrati italiani di modesta condizione con poche prospettive. Se vieni dal mio quartiere, hai tre vie d'uscita: entrare nell'esercito, diventare un mafioso o diventare una star. Francesco sceglie in fretta la terza possibilità. A 8 anni la madre Mary, che lavora in una fabbrica di birra, lo porta a vedere un concerto di Frank Sinatra. Per Frankie la serata gli regala una sorta di momento illuminante, la rivelazione di un futuro possibile, di un futuro fantastico. Il palcoscenico pareva come se fosse 30 metri sopra la mia testa. Quando Sinatra uscì sotto le luci, il pubblico, tutti che urlavano, ho capito proprio in quel momento che questo era quello che volevo fare. Da quel giorno ho iniziato a cantare un sacco in giro per casa. Il padre Anthony non sembra essere d'accordo con i sogni del figlio. Lui fa il barbiere, vorrebbe che il figlio seguisse le sue orme. E in effetti Frankie, che non è particolarmente attratto dallo studio, per i primi anni si mantiene facendo quello: barba e capelli ai suoi concittadini. E non solo. Guardando indietro a tutte le cose che ho fatto da ragazzo, capisco quanto sia stato difficile entrare nello show business. Ho fatto tutto quanto fosse in mio potere. Ho lavorato come operaio edile, sono andato a scuola per imparare a fare il parrucchiere, ho lavorato da un fiorista all'ingrosso per il quale consegnavo a tutti i fiorai del New Jersey, tornavo a casa e andavo a lavorare al molo. Con i primi lavori, ricordo, prendevo 5 o 6 dollari a notte e ho vissuto così fino a quando ho avuto successo. Non è stato facile, ma ero davvero determinato. E in mancanza di un appoggio da parte dei genitori, Frankie viene aiutato da una giovane cantante di hillbilly. È un genere di musica lo hillbilly, è una specie di country americano, e lei lo prende sotto la sua ala protettrice, lo accompagna a incontrare produttori musicali. La cantante si chiama Texas Jean Valley, e quando il primo 45 di Frankie viene pubblicato come tributo alla sua amica, lui cambia il cognome in Valley. I suoi primi due dischi da solista, My Mother's Eyes e Forgive and Forget, non vendono molto, però convincono Frankie che quella è la strada giusta. Lui inizia a cantare con un piccolo gruppo, i Variety Trio, così si chiamano, formato dai due fratelli DeVito e Nick Maciocci. Come potete capire dai cognomi, siamo in piena Little Italy. Forse il dato interessante di tutta la carriera di Frankie Valli è proprio questa connotazione molto, molto italo-americana. Qualunque sia il gruppo con cui Frankie si esibisce, e il genere di musica ha il sapore inconfondibile di quel mondo, di quella cultura che, nonostante sia ovviamente influenzata dal gusto americano, mantiene una sua certa autenticità. con la sua presenza i Variety Trio si trasformano nei Varietons, che diventano a loro volta i Four Lovers. Durante queste trasformazioni i membri cambiano, con l'unica costante di Tommy DeVito, con il quale inizia una lunga e proficua collaborazione. I due condividono la stessa passione per la musica e anche qualche timore. Ho visto così tante persone restare intrappolate nel New Jersey e avevo questa paura incredibile di restare anch'io intrappolato come gli altri. Si finiva la scuola, si trovava un lavoro, ci si sposava, si avevano figli e si moriva in Jersey. Io volevo di più. Per tutta la metà degli anni 50 la risposta a questo desiderio di Frankie, desiderio di fuga, è il gruppo di Four Lovers, e lui rimane al comando di questa band assieme a Tommy DeVito. Ma nonostante il timore di fare la fine, diciamo, borghese dei suoi concittadini, comunque lui si sposa a 20 anni, sposa una ragazza che si chiama Mary Delgado, che ha già una figlia di 2 anni. Insieme fanno ancora 2 bambine, poi divorziano nel 73, e per mantenere la famiglia Frankie continua a fare il parrucchiere e la sera esce e canta assieme ai Four Lovers per cercare di fare 2 lavori, di mantenere la famiglia, e non si può essere troppo schizzinosi in quel momento. Mi sono esibito in un sacco di posti di proprietà della mafia. Avevano le mani in ogni cosa, quindi se non eravamo pronti a lavorare per loro, la nostra alternativa era di non lavorare affatto. Ma non mi sono mai arruolato nelle loro file. Beh, Valley non c'entra niente con la mafia, però è anche vero che nel New Jersey non era difficile finire in galera quando sei un italo-americano nato nella classe operaia. Infatti tutti i 4 componenti del gruppo, compreso lui, finiscono più a lungo o meno a lungo in cella. E nonostante l'impegno, nonostante il duro lavoro, la produzione dei Four Lovers non riesce a entrare nella classifica americana. A parte un piccolo successo e una partecipazione all'Ed Sullivan Show, il gruppo non decolla, non sfonda. Alla fine degli anni 50, però, con l'arrivo di 2 importanti figure, le cose prendono una piega diversa. La carriera di Frankie Valli sta per spiccare il volo. Il falco e il gabbiano. La svolta avviene nel 1958. Frankie Valli e Four Lovers incontrano Bob Crewe. È il primo dei loro incontri fortunati, perché Bob è un produttore musicale, soprattutto è un autore di canzoni di successo. Conosce i ragazzi di Newark, capisce che c'è della stoffa, propone loro un contratto di 3 anni. E il secondo incontro avviene grazie a un amico, Joe Pesci. Stiamo parlando dell'attore, quello di Martin Scorsese, protagonista tra gli altri film di Quei bravi ragazzi, dove il suo personaggio peraltro si chiama proprio Tommy DeVito. Joe Pesci, anche lui è originario di Newark, è un figlio di immigrati italiani, insomma il giro è quello. E un giorno incontra Frankie e Tommy, propone loro di incontrarsi con Bob Gaudio, che è una specie di ragazzo prodigio che da quando ha 15 anni canta, scrive canzoni per un gruppo chiamato The Royal Teens. E fra Frankie e Bob Gaudio c'è una simpatia immediata e decidono di unire le loro carriere con una specie di patto di ferro. Bob accetta di dare a Frankie la metà di tutto quello che guadagna come scrittore e produttore, e Frankie accetta di dare a Bob la metà dei guadagni ricavati dalle sue performance anche fuori dal gruppo. È un accordo molto strano, molto rischioso, è una sorta di tutela, è uno di noi due comunque farà successo, e quindi una sorta di patto di sangue tra amici veramente stretti. E l'accordo, pensate, rimane in vigore per 45 anni, viene sigillato solo con una stretta di mano. Sono cresciuto in un quartiere in cui non sapevamo niente di contratti e avvocati, ma se davi la tua parola a qualcuno era sufficiente. La penso ancora in questo modo, anche se oggi è tutto molto molto più difficile. E nel frattempo il produttore Bob Crewe capisce che con Gaudio il potenziale dei Four Lovers può crescere moltissimo. Pensa che però il nome del gruppo sia datato, consiglia ai ragazzi di cambiarlo. L'idea per uno nuovo gli viene per caso una sera. Una sera dovevamo cantare nella sala cocktail di un bowling, ma una volta arrivati lì non ottenemmo il lavoro. Uscendo guardammo in alto il nome del posto, The Four Seasons, ed esclamammo: «Ragazzi, che grande nome per un gruppo!» E dopo il nome, Bob Crew cambia anche il sound del gruppo. Parte da due grandi punti di forza: la capacità compositiva di Bob Gaudio e la potenza del canto di Frankie Valli, che è in grado di coprire molte ottave ed è in grado soprattutto di cantare in falsetto. Il falsetto in realtà si usava già da molti anni. Lo utilizzavano i gruppi R&B da tanto. Solo che per lo più veniva utilizzato come background, come rinforzo della voce solista. Noi invece abbiamo capovolto le cose e ci siamo detti: sarebbe bello se la voce principale cantasse in falsetto e l'armonia venisse costruita intorno al solista. L'intuizione di Crew si rivela giusta. Da quel momento la voce acuta, ma anche capace di convogliare emozioni, di Frankie Valli diventa uno dei suoni più distintivi del panorama musicale degli anni 60. E da quel momento sui dischi dei Four Seasons, nella leggenda, cioè in copertina, viene scritto featuring The Sound of Frankie Valli. Per lanciare questo nuovo sound, Crew chiede a Gaudio di scrivere una canzone che possa mettere in luce la voce di Frankie. Nasce Sherry, che raggiunge subito il numero uno in classifica americana nel 62. Un inizio col botto, un inizio che non conosce fine. Dopo il grande successo di Sherry, Frankie, Gaudio e Crew non hanno nessuna voglia e intenzione di fermarsi. Nello stesso anno riescono a piazzare altri due numero uno: Big Girls Don't Cry e Walk Like a Man. Con questi hit, i Four Seasons diventano improvvisamente la band più famosa d'America e lo rimangono fino all'invasione dei Beatles. Ma Frankie ha delle qualità veramente particolari e non può rimanere costretto all'interno di un gruppo. Negli stessi anni in cui i Four Seasons mettono a segno alcuni tra i loro più grandi successi, lui inizia anche una carriera parallela da solista, e naturalmente con Crew e Gaudio, che si impegnano a scrivere e produrre canzoni per lui. E forse è la prima volta che avviene questa specie di carriera congiunta, che poi nel corso della musica rock capiteranno molte altre volte. Insomma, apre un po' la pista ad altri cantanti che seguiranno le sue orme. Dopo alcuni tentativi di trovare la canzone giusta per enfatizzare la voce di Frankie anche al di là del falsetto, nel 67 lui incide il brano Can't Take My Eyes Off You, che diventa subito un hit, raggiunge il numero 2 della classifica e da allora viene riproposta da un numero infinito di altri artisti. La cantano anche Robert De Niro, Christopher Walken e John Cazale nel Cacciatore. Forse la versione più conosciuta però è quella di Lauryn Hill del 1998. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Frankie Valli, uno dei cantanti americani più dotati degli anni 60, il grande interprete della mitica I Can't Take My Eyes Off You, l'inventore del sound alla valle, cioè un falsetto usato non più come background armonico ma come vera e propria voce solista. E quindi quello che poi anni dopo fecero con un altro grandissimo successo, i Bee Gees. Dalla sua storia col gruppo dei Four Seasons viene tratto anche un musical e un film diretto da Clint Eastwood, i Jersey Boys. Vorrei presentarvi una mia nuova scoperta, Frankie Valli. Dream Le avevo sentite tutte, ma mai una voce come quella di Frankie Valli. Senti, abbiamo qualcosa per te, chiaro? Sherry. Prepara la pista, raddoppieremo la voce di Frankie, esploderà dalla radio. Sherry. Non è un sound diverso, adoro questo disco! Ti chiedono qual è stata la svolta. Noi, quattro ragazzi sotto un lampione, la prima volta che abbiamo creato quel sound, il nostro sound. Ecco la svolta. Signore e signori, Four Seasons! Italo americano del New Jersey, con una faccia un po' alla minoritano, se vogliamo, è di una modesta famiglia di immigrati che abitano la periferia di Newark. Lui, Frankie Valli, ha la passione per la musica e non finirà a ingrossare le file della mafia locale, non finirà neanche a fare il barbiere come il padre voleva. Sono andato a una scuola per parrucchieri e ho lavorato come barbiere per un po'. Ma quando andai da mio padre a dirgli che volevo fare il cantante, mi disse: ma che razza di lavoro è? Oggi la pensa diversamente, ma dovete capire che entrambi i miei genitori non bevevano, non frequentavano locali. E quindi quando io tornavo a casa alle 3 del mattino, trovavo mio padre che mi aspettava sopra le scale. Quando uno ha un sogno e il talento per farlo avverare, non ci sono ostacoli. Negli anni 60 Frankie Valli, insieme al gruppo dei Four Seasons, diventa il cantante più famoso d'America grazie a quel falsetto che è il suo marchio di fabbrica. Ma la storia di Frankie non si esaurisce con la band. Anche se per anni la sua carriera da solista e quella di voce principale viaggiano in parallelo, ma proprio quando la stella sta raggiungendo l'apice, il punto più alto, nei primissimi anni 70 lui si ammala di otosclerosi, che è un indurimento del tessuto osseo dentro all'orecchio. Praticamente non riesce più a sentire bene e quindi anche quando è in scena non riesce a sentire se stesso cantare. Il problema principale era che temevo sempre di stonare perché non riuscivo a sentire la band. Non potevo sentire le note. Ascoltavo la musica a un volume pazzesco. La verità è che stavo perdendo l'udito e nessuno sembrava in grado di aiutarmi. Non c'era nessuno. Ma non ho mai mollato e in qualsiasi parte del mondo andassi, andavo a cercarmi un medico che mi aiutasse. E finalmente trova un chirurgo che riesce a risolvere il suo problema, riesce a recuperare quasi tutto l'udito e quindi torna anche la sua capacità di sfornare capolavori. Nel 75 incide My Eyes Adore You, scritta sempre dal suo partner storico Crew con Kenny Nolan, che è un autore che in quell'anno peraltro scrive anche Lady Marmalade, e anche questo brano raggiungerà la prima posizione nella classifica americana. Poi dopo pochi mesi, insieme ai Four Seasons, incide Who Loves You, che arriva al terzo posto. Insomma, nel 75 i dischi di Frankie vengono venduti a milioni di persone e insomma anche economicamente comincia a passarsela veramente molto, ma molto bene. E dopo il successo di Who Loves You, i Four Seasons fanno uscire December 60 Oh What a Night, con un ritmo degno della migliore musica disco del momento. E sono gli anni delle grandi discoteche, lo Studio 54, l'Odyssey 2001 di Saturday Night Fever, che uscirà peraltro nelle sale un anno dopo. Frankie Valli e i Four Seasons dimostrano che dopo 20 anni di carriera riescono ancora a rinnovarsi e a proporre canzoni che non sono solo attuali, ma anche degne dei primi posti in classifica. E nel 1978 Frankie Valli da solista mette a segno un altro colpo d'ala spaventoso. I fratelli Gibb, quelli che più di tutti forse hanno un debito artistico nei suoi confronti per lo sdoganamento del falsetto, lo chiamano e gli vogliono fare una proposta che si rivelerà vincente. Mi chiamò Barry Gibb dicendomi: ho scritto una canzone, credo sia perfetta per te. Sarà la canzone con il titolo di un nuovo film. Il mio manager a quel tempo era Alan Carr, che era anche uno dei produttori di Grease insieme a Robert Stigwood. Mi chiamò e mi disse: cosa vuoi fare? Puoi essere nel film o cantare la canzone del titolo? Beh, avevo già sentito il brano e mi era piaciuto. Allora chiamai Don Costa, a quel tempo uno degli arrangiatori più famosi, e gli chiesi di venire ad ascoltare la canzone. Mi disse: se non la registri sei pazzo. Grease è stato uno dei più grandi successi che abbia mai avuto nella mia carriera. Purtroppo però nella vita di Frankie non ci sono solo successi. Il decennio che parte col 1980 inizia con molto dolore. La figlia della prima moglie, Celia, quella che lui aveva adottato col matrimonio, e muore cadendo da una scala, e 6 mesi dopo un'altra figlia, Francine, muore di overdose. E per Frankie è un colpo durissimo e, come al solito in questi casi, l'unica che lo può tenere in piedi è la musica. E una nuova opportunità come attore: nell'85 gira un episodio di Miami Vice, una serie che in quegli anni sta spopolando. Poi parteciperà a molte puntate dei Soprano, la famosa serie TV sulla mafia in New Jersey. Nel 2005 la storia di Frankie Valli e dei suoi Jersey Boys debutta a Broadway con musiche di Bob Gaudio pescate dal repertorio dei Four Seasons. Lo spettacolo ha un successo enorme, vince 6 Tony Awards, l'Oscar del teatro. Nel 2014 esce la versione cinematografica dell'opera con la regia di Clint Eastwood, ne abbiamo parlato prima, e naturalmente il musical ha contribuito a mantenere altissima la fama di Frankie, che ancora oggi continua a dare dei concerti in giro per gli Stati Uniti con la sua voce inimitabile. Ho sempre creduto che un cantante debba essere in grado di cantare qualsiasi tipo di canzone. Se volevo cantare una canzone di Cole Porter, dovevo essere in grado di farlo. O una canzone come Sherry, ma anche una canzone di Dylan. Non sono andato a una scuola apposta per imparare a cantare. Ho comprato i dischi degli artisti, li ascoltavo e cercavo di fare ciò che facevano, imitandoli il più possibile. Facevamo cover di ogni tipo di musica e questo è importante per chiunque voglia imparare. Si deve amare veramente ciò che si fa ed essere in grado di farlo. O almeno farlo fino a quando non puoi più. In questo momento mi sento bene e continuerò a cantare per tutto il tempo che posso. Un mancato mafioso, un mancato barbiere o parrucchiere che con dei colpi d'ala segna la storia della musica dagli anni 60 fino ai giorni nostri, soprattutto grazie a una voce inimitabile, Frankie Valli. E se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi sui miei social, Facebook, Twitter, sui nostri Facebook e Twitter, insomma, se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.